Sì, si sentono gli scratch, direi. E siamo qui per la notte bianca di Radio ZM. Ci sono un sacco di amici e di amiche qui con noi. Sottofondo c'è Guccini, anche se non si sente. E stiamo settando i vari macchinari per cominciare. Adesso mandiamo un po' di canzoni mentre qui la gente scalda la voce. Il primo pezzo l'ha registrato oggi il nostro buon vecchio Cesa, e l'ho codiovato nel registrare questa traccia su un beat di DJ Libero. Credo che non abbia un titolo questa canzone, comunque adesso la sentite, la sentiamo assieme. Bella. Yeah. DJ Libero al beat. Cesa One. Check. RCP. Per Radio ZM. Notte bianca. Senti. Ogni confine è finto, poco come Edgar Allan. Se lo stato affonda ogni menzogna viene a galla. Leggo un muro che parla, la musica parla. Seguo ogni sbaglione, set me falla. Passano 30 anni, odio ancora, penso positivo. Resto chiuso in casa solo se mi penso positivo. Sveglia alle 7, vite caffè o non prendo il ritmo. Come si mette, sono malato, questo è il sintomo. Assuefatto dal primo sentimo. Intorno vedo solo persone assenti e so. Non hanno prospettive, sembra manco gli interessi. Non ho testa hip hop, studio i testi da anni bro. Li sento che dicono minchia che curriculum. Lo leggono mentre mi reco al patibolo. Ci vedo limpido come un dipinto mo. Bella sensazione, peccato duri un attimo. Sento rap che è lingua morta, ma non è un classico. Buone vibra, faccio scorta, quante ne mastico. Ogni tanto la mente corre come Michael. La società ti dice di non mostrarti mai stanco. Lavora, produci, consuma, crepa. Il mondo che propongono ha ben più di una crepa. I racconti che ci fanno e la realtà non corrispondono. Come fare a dirlo? Beh, basta guardarsi intorno, bro. Vedo ruoli imposti, pare da paraocchi. Vedo tutti i profitti nelle mani di pochi, da soli siamo tutti per forza fuori dai giochi, nelle crew trovare tutti i possibili sbocchi, libertà o giustizia, i due piatti della bilancia, il bosco è compromesso, non solo la mela in marcia, vivo disilluso, quindi meglio tagliare corto, RCP, due barre sulla cassa del morto. E questo era Cesa One, meglio conosciuto dai suoi amici come Cesare, nonché un esperto di Photoshop. O comunque, amici, qua ci sono tre microfoni e cioè non è che potete anche dire delle cose anche stupide, così i gulli che ci ascolta magari si piglia bene, o Piccarazzi, o tutti i compagni e le compagne che ci stanno ascoltando in questo momento. E nel frattempo sotto abbiamo DJ Fast Cut con Virus KO che scorrono lentamente. Qui stiamo accendendo le prime trombe, e chi capisce capisce. E per esempio dov'è Yax? Yax è scappato, stordito. No, stavo solo accendendo la bomba. Ah, stavo accendendo la cosa. E per esempio Yax, perché noi siamo qui a fare questa cosa della notte bianca della radio, cioè oltre che per passare un po' il tempo, ecco. Minchia, devo dire che quando ci si mette le cuffie si entra completamente nella situazione. La situazione diventa tutto serio, vero? In un attimo, sì. In un attimo. Ma niente, siamo qua perché perché ci abbiamo voglia di stare insieme e fare cose, perché riusciamo poco a beccarci in full combo, quindi uno degli ultimi giorni pre nuove sito e sbattimento sembrava un'ottima occasione. Approfittando del fatto che ci sia il coprifuoco dalle 23 e quindi non ci si può beccare, magari così con la radio riusciamo a beccare anche un po' di gente che adesso è a casa o sta tornando a casa o si appresta a ritornare a casa, e ci sta. E niente, qua se volete ci sono altre cuffie, per chi si vuole cuffiare si arriva fino a un massimo di 4 cuffie e 3 microfoni, e quindi direi abbastanza tanto, nessuno ci avrebbe mai creduto che saremmo riusciti ad arrivare a questi livelli, almeno quanto, per quanto mi riguarda. E se nessuno dei presenti ha delle altre accortezze da dire, mandiamo un po' di pezzi, poi magari mandiamo un po' di beat, sentiamo un po' di rime. Abbiamo anche acchittato un giradiscolo dal nostro DJ Fang, il nostro Vietcong DJ di fiducia. E niente, questa era DJ Fast Cut con Virus K, ormai è finita. La prossima invece, Pulsar, le scelte tu le canzoni, vero? Yes, sei, quindi ci sono tutte le hit degli ultimi dischi usciti da poco. E il prossimo pezzo è quello di Bill. Ah, ci suggeriscono, giustamente, noi abbiamo un canale Telegram, chat_zam. No, non so neanche come cazzo è il nostro Telegram. E ci potete scrivere in diretta, così, o mandarci degli audio, troviamo un modo di mandarli in diretta, oppure dopo forse attacchiamo il telefono di qualcuno e vi telefoniamo a casa e vi molestiamo un po'. Comunque il prossimo pezzo è Be Afraid di Conway, di Il Bill con Conway e Faron Monch, giusto Pulsar? Yes sir. E bella lì. Be afraid is your best option. Your brain on the wall, your eyes on the desk watching. Versace chopsticks and rock shrimps, the top chefs, experts are making pirate stretch. El Mahico water take his half a shotty to catch your body. He had the fucking silencer wrapped up like a salami. Shot three of you sounded like a baby sneeze. Stick trigger from the automatic baby squeeze. I send shooters on scooters, snipers on motorcycles, cruisers out of Ubers. Plus I supplied the Rugas, Uzis, Lamas, and Lugas, Illuminati, Palooza. Plus I don't know how you maneuver, make a move or leave your fucking head smoking like a hookah. Give your dope piece of crew cut, it'll happen so fast you won't even know who or what. Look, 30 shot Mac, violators perish. Got in the game with the flow that niggas obviously cherish. Jump out the Mazda, shit on my necklace by the 100 carats. Hand on my shoddy and I'm probably finna air it. I shit on anything niggas send me to spit on. Any niggas get out of line, I dump a clip on. Before rap, I was in them kitchens getting my mix on. Carpal tunnel all in my wrist from getting my whip on. I'm realer than them rappers you deem to be real niggas. You call him big homie, to me he a little nigga. If it's smoke, I ain't never too busy to deal with you. But I call Lil Bro to ensure that you kill quicker. Spill liquor, steal pictures on light pole. Drum all in a stick, it ain't heavy, that's the light pole. 10 piece on your head, yeah, I know the price low. They gon' make sure it's done before the end of the night, though. Machine, alright, yo? Spit that fire from the pit of my soul. It's never debatable. Your bio is degrading. Thank God it's biodegradable. You need to sell pork sausages in a synagogue. Look, all my dogs are cold. The Iditarod. And that there was a Klondike bar. For any female MC asking me for 16s, I'm like, what would you do for this Klondike bar? Slam any MC on the concrete you consider hard. Thought any scheme against the God a worthy plan. Shit on any so-called king or queen. Leave the latrine. Then I'll dare you with dirty hand. You should be afraid, you should be very afraid. Try to escape, I will mutilate you in various ways. When the chariot swing down, I made the chariot stay and pray for vibranium to destroy the area in Royce with. Jetstar, no cardio, no facelift. Ehi, ehi, ok. E questa era una nuovissima uscita, un disco uscito ieri di Il Bill, La Bella Medusa. Un bel disco che vi consigliamo di ascoltare. Ma secondo me la vera perla è questo disco che pur sarà giustamente messo nella playlist, che è il disco che è uscito ieri di Busta Rhymes, nuovo Ele 2 E puntato ELE. E questa canzone con gli MOP è una bella zarrata che vi facciamo sentire, godetevela.

Ok, qua abbiamo Grolandona, noi siamo Rap Caverna Post. Taglio corto ma profondo, lingua ferita, spada nella coccia. Troppi incastri, mi stanco a estrarla. Ricorda qualcuno, Zac della Roccia. Acqua nella brocca, ai brocchi solo acqua in bocca. Mi viene da piangere però non mi tocca. Si fa gara che più babbo sui social, per me la cipolla. Soffreggi in padella. In quattro salti salto i tuoi quattro quarti, li prevedo, tarocchi. Io quatto quattro mi apparto dentro il mio antro e scateno malocchi. Quanta infingar da questa scena, sembra più il paese dei balocchi. Ma sti marmocchi, mancano anticorpi e li spazza via un'epidemia di pidocchi. Non conta che più malato, ma chi tiene l'antidoto in tasca. Io fotta da ragazzino, forza della natura, un cazzo di Gian Burrasca. So cos'è l'impeto creativo, in cosa si distanzia dal bulleggio repressivo. Perciò non credo alla teoria dello sbirro buono e quello cattivo, perché è divisivo, come il silenzio attorno ad abusi e misfatti, o il baccano intorno a sgomberi e sfratti. L'ideologia che per me al nostro tempo dire cazzo che si vuole sopra i cazzi degli altri. Quindi strozzati con la mozzarella di sta pizza in faccia. Io tiro dritto con la fantasia, ma mi piacciono le curve, come a Giovanni Muciaccia. Vorrebbero appeso cacchemono steso al suolo, farmela pagare a peso d'oro, che finisca male come per Hubert nell'odio. Io me la cillo proprio, ci vado liscio olio, scivolo sulle cosce di Milano mentre mi fingo sobrio. Sai che sono il suono dei passi che non affretto, nei pressi di un vicolo scuro, con la prassi del buio. Schivo un inetto e ridicolo sbirro, tiro fuori un falco da un fazzoletto schillo, e tu mi passi l'ammazzo spento e stronzo. In giro mezzo morto, giro su mezzo rotto, spesa flexo sconto, reso conto. Se sta roba non ti piace, meglio. Tu apprezzi il mondo, io lo voglio fare a pezzi mofo. Non vedo il tetto naso, un pessimo occhio. Sono quello con pezzi di troppo in collo, pezzi di lotto, testa bassa, work hard, terza tazza storto. Sera caccia, no chance, stessa faccia cotta. Un poliziotto caccia un clochard alla stessa piazza e chiedi perché un porco. Ok raga, questa era Grolandona, un po' sulle mani da casa e da dove vi trovate. Un big up a nostro fratello Polissi, direttamente da Pavia Male, che ha collaborato con noi in questa traccia, che sarà presente su Sorvegliato Speciale in attesa di giudizio, presto fuori in tutti gli store digitali o quasi. Ehi! Cuts, Yo, Yax Flux sui tecnici, sul mini tecnico. Tu. E niente, facciamo sentire un altro paio di pezzi e poi mettiamo un altro beat. Siediti più a fianco, sta iniziando lo spettacolo. Un mostro che ti punta per sedersi sul tuo tavolo e ti mente perché inventa di speranze oltre la coltre. Storie risolte, il tuo punto debole, il suo punto forte. Guerra imminente dall'interno, violenza come sposa. Ah, fossi in te avrei fatto un'altra cosa. Allora calmami e ritrovami come costretto. Senti sentimi l'eco di catastrofi dal petto, sì. Ti guarda ad occhi freddi e braccia aperte, lei ti vuole. Ti resta a fianco col suo freddo prima di dormire. Non serviranno a rincuorarsi inutili parole. Ogni suo abbraccio è la certezza che ti sa mentire. Questa è una festa in cui nessuno si diverte, nessuno che si perde in certi affetti, cose poco certe. Come una pioggia di aghi dritta verso il cuore. Non prova emozione, sfrutta l'emozione a suo favore. Non lo scordare, ti ricorderai. Tieni bene a mente che sei parte di un progetto dove tornerai. E sei da sempre insieme a loro in questo loop, quindi vai. Non sbattere la porta quando te ne andrai. La nostra carne è gravide, l'involucro. Due occhi e due monitor, nella testa le pagine. Lo storico, la sacra Bibbia di Onitor. La carne è gravide, l'involucro. Due occhi e due monitor, nella testa le pagine. Lo storico, la sacra Bibbia di Onitor. Provare il male è un bene, sappiatelo. Il Dio del buio vive dentro tutti. Accettatelo nella partita o dalla ferita con due dita. Si fa largo agli occhi e s'autoguida, allora è davvero finita. Prende vita quando sa che t'arrendi. Sergente dei sentimenti, scamo di scusa che inventi. Ti regala il dono del distacco incartato in un pacco. È un biglietto con su scritto con affetto al mio caro vigliacco. È un Dio che ti consuma, è una piaga aperta che schiuma. Brama la vendetta con gli occhi di un puma. Si maschera d'amore, vi riempie con un altro stronzo. Con giorno implorerete che vi esca dal cuore a calci. E come darvi torto, da voi che pescate la vita in mezzo a pesci marci, un mare morto. Darci un modo per provarci un conforto, ma sono soltanto altri squarci sul corpo dal porto. Tutti sorridenti, tanti buoni consigli da bocchi di pedanti perdenti. Fuggiremo davvero da questa prigione di cubi, più intricata dei tubi dietro al telo del cielo. Che tutti parlino, parlino pure. Per la stupidità la felicità non necessita cure, né plessi torture. Quindi tessi la tela per nuove misure. L'odio anestetizza le grandi paure. La nostra carne è gravide, l'involucro. Due occhi e due monitor, nella testa le pagine. Lo storico, la sacra Bibbia di Onitor. La carne è gravide, l'involucro. Due occhi e due monitor, nella testa le pagine. Lo storico, la sacra Bibbia di Onitor. La nostra carne è gravide, l'involucro. Due occhi e due monitor, nella testa le pagine. Lo storico, la sacra Bibbia di Onitor. La carne è gravide, l'involucro. Due occhi e due monitor, nella testa le pagine. Lo storico, la sacra Bibbia di Onitor. Ah, le serate calde sotto le notti viola dei cieli di Krog. Le ragazze. Le ragazze e l'aggiunta di whisky moon nei bicchieri. Dejo mi marca en el planeta como universal. Y fumar vareta para ni pensar en toda esa mierda que hiciste mal. Vivencia heavy como solos de guitarra. Y no hablo solo de mi banda, todos en mi vaina. Polo, Hell y Jai, Max, corazón con tío polar. Todo lo que nos negaron ahora perseguimos más. Buscan a la suerte muy difícil de encontrar. Pienso que escucho su voz pero me giro y no está. Quizá vuelve en unos meses, sueños del Lexus GS. Volvería a hacerlo 100 veces si todos quieren una life liviana. Tú que soñabas de chiquito en Maracay, mi pana. Esquiva vainas raras, hay mil dramas. Viendo el futuro en tus manos como vieja gitana. Si de oro están pintadas, ten cuidado con las baldosas. Anécdotas valiosas, hazlo con más amor o van a empeorar las cosas. Ya, jamás olvides quién estuvo antes que nosotros, chavales, visten bien. Se atan las Nike del todo por si acá hay que correr. Grabándolo con el móvil, bumpeando CNN. Sé muy bien cuál es mi misión. Mi blasfemi, convicción. Mi deber trazar el rumbo de una nación. El dojo y su visión, la familia que me respalda. Un historial de metas cumplidas y cuentas saldas. Un mundo a mis anchas, el 10 cuando estoy en cancha. Nací para tomar el poder y dejar mi marca. En mi barca hay miles de soldados preparados para darle sentido a nuestro legado. Armados con imanes, en bolsas de mercado, remera de Zidane y los tenis manchados. Coleccionistas de veleros robados, vestidos como elitistas con caimanes y caballos. Mis hermanitos saben que soy el mismo de siempre y que trabajo para pasar diciembre con mi gente. Si a veces tengo la mirada un poco diferente, es porque tengo el ojo puesto en otro continente. Agradecido por lo que he conseguido hasta ahora, afortunado por tener de mi lado la aurora. Escribiré hasta que me llegue la hora, para que en todo el planeta se escuche mi banda sonora. This is where we live. The bachelor original neighborhood trimming. with white trash, blast classic rock and roll. Dunkin' Donuts, Newports, and lobster rolls. Hoes that smoke Marlboros with Diet Cokes. Blue collar white folks get cancer and die of strokes. My uncle used to read comics and jock D&D. Copped his GED, he got knocked for B&E. Any shortcuts to cash are treacherous. Neighborhood mass exodus. Soldiers with snatch necklaces. Snatch souls through holes and solar plexuses. Drive-bys on the block and older Lexuses. Lex Luke for Lex Luger suplex this dude through the drywall into my neighbor's duplexes. I'm Tyrannosaurus Rex with a Pyrex. My guns got chambers wide as Stubanger's biceps. Every brain that he dissects are 5 steps. Better be less than 5 seconds or you giving me 5 reps. Peep the science. My heart pumps liquid violence. Walking down the block, tearing out fire hydrants. Tires are flying, saucer offers, fucking rocket toss officers and coppers and coffins and sarcophaguses. According to notes for my horoscope, me and the Lord goat in the forest with cloaks. Got some whores on coke, couple swords to their throat. Start absorbing the dope. That's all she wrote. My pop stashed that raw, 20 packages, no in between. Moving powder from Ozark, one alphabet of triple B's. Cruising used to pick up models in his Hemi sipping lean. He taught me how to lace the drinks up like CeeLo Green. Single parent, Mom Duke, so food in the fridge is empty. I hit the desert for the work, I call my man in Tempe. Strip bitches on buses, door knockers and Benetton. My Megatron, got Iron Maiden tickets since Teletron. Mobbing bricks with snowflakes, your pussy like Coldplay. Put Decepticons in the park, giving facelifts like OJ. Joe Vitarelli, bad vibes and cops grilled. I want all the smoke, regain power when cops killed. I'm in spot built, you in hospice, legs up and top build. Carbine case of shells, cocaine paste, massage your brain. The architect of pain from a martyr's plane. You barely above ground, we bury you in carbon frame. Where we rest, there's no joke. The neighborhood's full of reps, cities of darkness. The neighborhood, that's where we live. The bachelor original, neighborhood criminals. The neighborhood, where we rest, there's no joke. The neighborhood's full of reps, cities of darkness. The neighborhood, that's where we live. So let me, so let me break it down. Just curious, I saw you shuffling your checks with your right hand. Can you do that with both hands? No. Hit the boys. Se, se, jak z fluxej tecnici. Ritorno al monte fatto. Ehi, sopra le lande radioattive, respiri e rischi che spiri. Fendi foschi e chimiche che sfilano in file di spiriti. Marcia in quarta marcia tra i miasmi di fogne scure. Dov'era ogni carogne di nutri e nutron gomme d'autovetture. La nebbia è così spessa che ti taglia col coltello. Vedi le tue budella buttate nel buio di un budello. Il re degli elfi infesta la foresta, preda la preda e torna nell'ombra. Il cemento è più armato di quel che sembra. Teste di ponte per teste vere dove è penuria. In pianura dove c'è una nutria che ti guarda grande con gli occhi gonfi pronti a ricoprire fogli di sangue che irrompe all'interno dei piombini segnati con la traccia del vampiro che è la minaccia dal castello di Dracula in faccia. Le orecchie appuntite, mai capito che in questa miniera trovi solo pirite, perché ci sono spiriti che escono da vipere che ti pungono con le loro viscere. Hai capito che sono il trivello matematico che entra all'interno del tuo scatolo cranico. What? DJ Fang. Fang! DJ Fang, a.k.a. Rabbia Proletaria. Cuts, yeah. Well, cuts, yeah. Well, friends with the Sherlin that Bean had before you test me. You ought to think of your brain pan. Donnie's a gorilla. Al-Qaeda came with the killer's gun on the waiter while I wait for niggas. Plate full of plans. If you wanna die, I know the devil. Go ahead and pick the date for the dance. I'm in the I-8, blow an 8 on the iPhone. On a money call, then take the advance. 50-50 split, take mines on the back end. Business going good, take the profit, put it back in. Reaganomics in effect, rooftops with cartels. Honor in the set, my outfit. Put you out, kid. Fuck about the plug, cause we the outlet. Yardy homie got a tech, any on that stout shit. Land homie got the coke, any on that rap shit. You ain't really bout shit. We let the dogs out. Man, come on, you ain't really bout shit. Blam, blam, you in the law's house. Man, come on, you ain't really bout shit. Like, damn, this lock shit stick. We ain't playing with you niggas. In the trunk, I got them things that'll spray and hit you niggas. What? Think something funny? Y'all keep laughing. Nigga already dead. I'ma keep stabbing. Been a loose cannon. Been putting work in. Name ring your bells. The school's deep. The war burden. Niggas talk about battle, but they ain't battle dog. My rap sheet is longer than niggas' catalogs. Fuck you battle for. No, you ain't winning. X been the Grim Reaper since the beginning. These new rappers, I be like, what the fuck is you doing? La domanda della serata è: Fergi dov'è? Tutti ci stiamo chiedendo dov'è Fergi? Perché quando Fergi non c'è, qui gatta ci cova. Nigga hate when you be moving, they rather you still. Keep track of me, watch the back of me. I pop up more than my son's agony. Cut them into pieces, body in the freezes. I don't drink lean, so I'm catching seasons. With the cheese, I'm like Lil Caesars. Fuck your debit card and your little visas. Coke game, dope game, niggas been around that. Shot dead, left in your bitch house, you get found that. Trap game, rap game, niggas made hits. LOX, D block, get off my dicks. Pretty much all who we are now. LOX. Shed light on the city with a dark cloud. Fire. Bought Diddy through, even bought the R's out. Yeah. And a lot with the trucks and the cars out. And we never said once if it wasn't for us. Hindsight, I look back, it just wasn't enough. Nah. The fake love got exposed, just wasn't the lust. Find out who's who, you seek others to trust. It was already bars, we was already stars. Couldn't make us more related than we already are. Nah. It was written already, meaning it was already gone. And we came from the bottom, so it was already hard. Hey Daddy, what'd you bring us? You know, sometimes growing up, I wish I could have been a daddy's girl. Some daddy's little girl. But see, coming from where I come from, a lot of us never had the chance to be that. Look, the older I get, the more I find it harder to date. Cause I deal with men that make them suffer from my father's mistakes. It's hard to explain the pain that it caused at my age. Knowing your pops ain't coming home and watch your mama go slave for minimum wage. Back when I was still playing Barbies, wheels to the concrete, little sis was still in the car seat in the hood. East side, I was still watching Barney. Raising kids by yourself, paying bills get exhausting. Peep game, started as a single mama as a teen. That's my mother. Fast forward with $4 that she feed. I'm running wild, a black girl lost up in these sheets. Tried her best, but it's some things only your father's supposed to teach. Where was you at? When niggas broke my heart, that's when I need advice. Instead, I look for love, thinking that would be suffice. To the pain of not having my father teach me right. He broke my heart, that was way before I learned to read and write. Where my daddy at? Daddy at? Daddy's girl. Have to grow up quick. Daddy's girl. Daddy's girl. Some daddy's little girl. Daddy's girl. Where my daddy at? Daddy at? Daddy's girl. Have to grow up quick. Daddy's girl. Daddy's girl. Some daddy's little girl. complexion, bad and reckless in my adolescence. Cause I was young the first time I see my dad arrested. That type of shit had mama mad and stressing. Cause it's hard to tell the truth when you hear your... Okay, big up DJ Mandingo. Hey yo, educazione broniana. Dalla regia mi dicono che il tuo film non sa da fare. Dalla regia corre voce che il tuo sogno non sia reale. Non sia regale, qui non si regala niente. Gestione anticiclica delle fluttuazioni d'ansia nel ventre. Ti posso dare la mia merda e sviscerare sì tue complesse. Ma ho soltanto un fucile a scorregge compresse. Figure a dir poco compromesse. Coi volti e compromesse di convalidare nuove tessere. Il mosaico arcaico si replica. Sto alla mia rubrica, non con chi derubrica ogni oscenità come in estetica. Piuttosto l'estetica, l'intervento è rotto da un intermezzo in cui coscienza mi interpello. Tra me e la mia pelle a caro prezzo, cosa vendo? Io cosa si mette in mezzo? C'è qualcosa che finisce al vento. E se mi schianto contro i muli mi paziento. Farò ritorno con Shami da via al mio comando come Vulnus Vendor. Perché di pietà sto scevro come i vampiri succhia emozioni del pianeta Evron. Potere e potenza ritorti contro l'impero. Mi guardo attorno e penso bella la fiamma di sto scemo. Come rivelare il velo di Maya del sentire. Ricalibrare il colpo in canna quando ci stanno dentro vite. Educazione sentimentale del giovine pulsar. C'è più ghiaccio qui che nel permafrost della tua tundra. E ancor più mi asmi occultati sotto la coltre gelida. Una presenza congenita, congeniale a chiudere le barre in maniera ermetica. Puoi chiamarmi ermetrica, ineffabile come l'incognita. Terra australis, terrore dei mari. Intendo quelli chiusi dalla catena degli Urali in tempi ancestrali. Rime come strali di tacchioni bucano la tua cronovela della tua temponave. Chiamami Cronin. Pulsar la prora con l'occhio Jacopo tropaico. Incuto timore sotto cutre come un tatuaggio sull'organo cardiaco. Meglio tutto pazzo che ghoul flame. Ancora prova a socializzare anziché stare tutto face. La storia la scrive chi vince mi consentano. Io tengo ricordi che non mi appartengono. Io cerco l'ho messo, il non detto, il nesso diretto per un nexus perfetto che possa sopravvivere al giorno del sole freddo. Perché di pietà sto scevro come i vampiri succhia emozioni del pianeta Evron. Potere e potenza ritorti contro l'impero. Mi guardo attorno e penso bella la fiamma di sto scemo. Come rivelare il velo di Maya del sentire. Ricalibrare il colpo in canna quando ci stanno dentro vite. Educazione sentimentale del giovine pulsar. C'è più ghiaccio qui che nel permafrost della tua tundra. Big up DJ Mandingo. Rap Caverna Posse. Bella Gigi, bella radio da ZM. Hey yo. Tu. In mezzo al deserto, in corsa verso un girone eterno, mentre il resto è fermo, rincorrendo sogni troppo grandi per il tuo cassetto, in perenne assetto, antisommossa, con il cuore in petto, in lotta contro te stesso. E la voglia di far esplodere il mondo con una molotov in faccia al tempo, contro vento, scorro lento. Le immagini mi rimandano ad un plot violento come un colpo al mento. Lampioni arancioni accesi, l'ansia lancia anatemi più affilati dei laser dei cavalieri Jedi. Sui marciapiedi pozzanghere riflessi sulla fronte calda, sperando che il sole salga come un'altra alba. Mi trovi sempre qua, sempre. Giorno dopo giorno uomo crescerà, sempre. Lottando con le sue paure, aspettando la sua salma sulla riva del fiume. Nati dai desideri di qualcun altro, caduti dall'eternità in questa semi-infermità mentale. Tanti inverni fa, nessuna cernita, tutti nel calderone. Cosa bolle in pentola, ma che non si ricordano neanche il nome. In un film che dura solo pochi istanti, come si può crescere col cuore piccolo e con gli occhi grandi? Mentre l'acqua scorre ingirandole in modo intricato, ricomporre il tempo sfiorandone il significato. Quando le giornate passano ma sempre identiche, poi d'improvviso vecchie foto e non ci credi che sei te. Sbalzi d'umore come ballare scalzi sul cuore, ti ci perdi sopra, più aggressivo del muso di una Shelby Cobra.

blasphemous Baphomets, seance and practices. Tell time with the abacus, meditate with the amethyst. The all I see in gods and demons, odds and evens, coliseums, mausoleums, monotheism, carbon beings. Devil will tremble, heavier mental. Again, again, again. Yeah, blasphemous Baphomets. I speak like Pythagoras, secrets of chariots. Soon as the tarot flip, shows y'all Judas is scary. I'm Jesus of Nazareth. Caesar's inhabited, release all the savages. One knee like I'm Kaepernick, surrounded by candlesticks, stained glass and Catholics. In Sado, as Fatal's angels and Sado masochists. Found at my rosaries, what I found was my poetry. Screwing the silence slowly. Hold up, I must remain balanced and holy. Cause what I rhyme and what I say might trigger my brain to Alistair Crowley. I'm a replica of Yeshua, born in the Nebula, that 51 area, Central America. Heavy mentor, I was Tesla and Johannes Kepler, with a flow hard to measure. Chrome hearts and leather, your devilish Jesuits, prejudice presidents. I fly off of the Pegasus, start of my exodus. Man was intelligence, covered with melanin, pointing to the Jakku Stargate. Disciple of Yahweh, with a mind like Tycho Brahe. Vivid rhymes get you open like Barclay. Pope said my sins were washed during Pentecost. Been to seminars, synagogues, served many gods during Renaissance, prayed in plenty Mars. Plan to revisit Mars, the world would tremble. Back up, yo. The one in particular, bringing the funk and the flavor, the way that I'm rhyming. I'm running perimeter, speaking it funny. I'm beating up dumb and I'm taking their life. And I be the one to beat them in the game of Scrabble. Wonder why they thinking that I'm ever so nice. And I be the one to never get caught up in a scandal. Cause you know the pros are so precise. And what I be doing impossible, I'm a abolish like all of them. When the button is pressed, I give it the throttle. When all of you, when I see the marble, when it's sudden death, I be the one to give it all I got to run it up into a speed. Anybody try to copy, get a smack, and then I'm ready for the battle. Any moment, any minute, I'ma turn into a killer. Any second, I'ma snap it. I'ma get it to a mood, and everybody better stay away and move. Cause anybody getting caught up in the show, and then I hit him with a strike, and I'm bleeding on the floor. And then they gotta be aware that it was fucking with the flow. And any minute, I'm ready, spitting the heavy or the deadly. I'm jetting, and I'ma make it on the setting of fast flow. Sending a lyrical melody, giving it a felony. Fuck it, you telling me you better take your rap notes. I'ma give it some breath from all of my rhyming and clothes. I'ma give it some rest, but I deliver my best. Time to let it be told. When I be spitting my best, I'm in an intricate zone. When I belittle your set, put in your middle to rest. You're not defying my flow. Yo, living, never be the end of the era. Came with the vendetta. We keep in the 80s. I'm tougher than leather. The ladies are loving me bigger and deeper. Like Peter the Piper, been picking the pepper. I get it to give it a cervical injury. Kicking the walls when I live in the uterus. Fetus from moving and doing this. Doing this quicker. The butcher, vanilla, McGilla, gorilla, the villain, the criminal, killer, and teller. The hunt with the gun, the menace to the public. I'm pummel, a puppet, political pundit. The better the battle, the inability to meddle with the better, veteran, the heroin, the medicine, the venom with the medicine, the regimen, the vitamin, the better get him in the tenement. I hit him in the head again. And linen with the beetle singing, let it be the legacy. The enemy to live a little bit. And when I hit him with the minigun, the penalty to get it beheaded. The son of Zebedee with the negative energy identity. They want to get rid of us. I get to keep in the coming. Vigilante, get it to medical, the beat to be drum, give me the record, the sick of the wicked, deliver the gun, a milligan in the beginning with the military, bucking to the shining, the killing the kid to be another Kubrick, and he giving the killer the kiss, digging the dig of the dish, living to resist, it'll be a levity, a genie giving it the wish. Fuck the gibberish, gibbery, fast rapping too quick. What happened to the boom bip? What you think? You a fool schnick? You in the ocean with sharks, or Moses closing ocean parts? I burn you like Joan of Arc, I sit you down like Rosa Parks. Gotta be dope, dope. Gotta be dope, dope. And I'm R.A. the rugged man mixed with Sean Price, Jizza, Mix Rock, Kim Kane, Pharoah Monch, I'm on Mike's, Kuba, Sadat, Jamar, Tip, Ali, and Fife, Nadia by Nature, Tretch, Chip, Food, Chubb, and each line I'm G-rapping, it's prime with each track devoured. So ease back when I rhyme, or be plastic coward. You ready to get in the brawl of the box, and I'm calling the shots as top MC, and I'm on this beat, it's all been frozen, Rocky, and Apollo Creed. The lyric attack in the attic, a prison genetics, eugenics, a gattic, a vision, a Hindu, a manage, I'm not the magician, I'm cooking the heat up, I'm back in the kitchen, I'm super lovers. C, steady B, heavy D, like the MC, schoolie D, and just ice and iced tea. The illa tomorrow, Gonzalo Pizarro, no pega borrow, the gold Eldorado, Dillinger in Chicago, the killer Macharo, the Mr. Mixo, click the villain Bizarro, the high octane, the reign of Mozart brain, the end game of sharp pain, the pen game of Mark Twain. Go! You gotta be dope, Afro. Jazzy Jeff on the cut, cut. Durante mucho tiempo hemos escuchado hablar de las famosas armas de destrucción masiva, en la mayoría de casos como un concepto genérico, sin entrar demasiado en explicaciones. Sabemos qué son, ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? ¿Y quién las tiene en su poder? Guns drawn, red dawn like mass destruction. Crack cocaine and hair on in mass production. Smoke the whole dust before my life's done with. Uranium blunts, petrol, dirty pipe bombs. Suicide with nitron, her does a nice job. Pray the Lord Allah, even God Ra. And the grace of the devil, please take me far. I can hear babies cry, can't fade it out. I can see spirits die, lights dying out. Cities torn, explode like quasars. Lights flash, heat waves, thousand miles of blaze jar. Add a bonds, a million tons waste. Strong, made by American scientists and outlaws. For the revolution, this is Scout's law. A message to Trump, nigga, fuck your war. Overthrow the government, plus NATO. Fuck your new weapon designer, Tony Ramo. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. Mis visiones futurísticas presencio asesinatos, un maltrato a los derechos, pisotea nuestros zapatos, firmas en contratos, desacatos insensatos, opresión. Soy la voz de los sensatos, cae el manto y me levanto en este ambiente de espanto. Somos tantos, sobrepasamos nombres de los santos, algo intacto, directo en un acto como en un pacto. Mis cantos, la fusión, la energía del encanto. No aguanto estos líricos que provee Monsanto. Artefactos putrefactos causan daños, un impacto ambiental. Bajo este régimen global, amenazados a muerte con armamento universal. Hoy retracto la verdad en manos de cualquier beato. Los mismos sindicatos, tu voto a los candidatos. Me parto trabajando por ver comida en un plato para morir lentamente en el anonimato. Survival got me bugging, but I'm alive on La misma historia que siempre se repite, el mismo triángulo vicioso. Illuminati que hace que el mundo grite que no tiene cura alguna, solo la destrucción masiva con armas nucleares que extingue millones de vidas. Los efectos son devastadores para la madre tierra, niños que no tienen que ver con esta guerra. Contaminación química, biológica, diabólica en esta esférica apostólica de bombas atómicas, apoyados por la oligarquía, iglesias prostitutas y países invasores, bombardeando con aviones todas las naciones que no piensan como ellos, sociedades de masones. Para muchos es un apocalipsis que se hace más evidente al ver toda esta crisis que no para y nunca parará. So I'm ready for that, man. Survival got me bugging, but I'm alive on arrival. Chemical warfare, ain't the devil happy. My voice 48 and you cannot escape. Like harp frequencies, my voice causes distortion. Global enemies, hurricanes and weather manipulation. Flood whole cities when I hold the mic and spit. Spread like the disease, evil forces disseminate through vaccines, poisonous chemicals and debris. European governments permit some of their own citizens to leave. Join terrorists, ISIS militants murder kids while drones whiz, bombing innocent civilians. Took the rap game, made it mine like European Americans. Yo yo yo yo. Quando parlo io va giù il beat. Yo yo, ok, adesso va meglio. Ehi bro, delibera di vibre alle soglie di grado soglio. Febbre da cavallo nella cui bocca mi guardo bene dal guardare. E da guardare sto naveglio, sto una meraviglia. Quando il parapeglia sparpaglia pare per meglio. Rap caverna fosse la famiglia. Scene da grade il beat al lago sanguisugo. Un sugo per i fan della fanghiglia. Mulinelli di monelli ti affonderanno sul fondale. Siamo tribù senza attributi con attributi da tabù. Tra le fronde della foresta siamo scimmie in festa con scimmie in testa. Non c'è due senza tresca, nessuno alza o fa la cresta. Siamo una squadra marcissimi dal buon palato. Tra santi che bramano il tuo brasato, le cornie dalle carsi baffi, ma c'è chi tiene puzza sotto il naso, pur col fatto che ho l'olfatto tappato, li sgamo al naso. Sarà che un patologico non può che essere patologico, qui è Pulsar, il coltello dalla parte del sadico. Te cervello mento, non dici quel che pensi, ma quello che si dice al momento è ciò che penso di questi fiacchensi. Del cervello mento, non dici quel che pensi, ma quello che sei dice al momento è ciò che penso di questi fiacchi MC. Homo ruderalis, l'anello mancante, zero bling bling. I nostri microfoni sbanfano delle 3D Think. Finita l'era dei rapper dall'uccello lungo, sappilo. Comincia il tempo degli MC con lo pterodattilo. Tu datti alla dattilografia, noi a politiche paleolitiche. Tracciamo tracciati con tracce su mura monolitiche. Monotone le righe tipiche di tipi pluripolari. Siamo degli estercorari, puoi aprirci al prossimo safari. Col rap creo atmosfere, do vita ai miei mondi. Sparo pulsar uranio impoverito su musica da due soldi. C'è chi se li fa tirare squirta come una fontana. La mia scena le palle piene, mani legate, seghe in testa insana. Mi senso lato, seguiamo teste di cazzo. Non è via delle usciate, ma vedo troppi cervelli a spasso. Segrego segreti in segrete, con grate segrete dalla mia scienza. Trovali sul greto di ti flussi di coscienza. Il cervello mento, non dici quel che pensi, ma quello che si dice al momento è ciò che penso di queste piaghe in sé. Perché la metto, non dici quel che pensi, ma quello che si dice al momento è ciò che penso di queste piaghe in sé. So be wary, what's in the jungle head. Sunga bunga's head, you'll be trapped inside of a bunker head. You in the gutter where you'll be pissing inside your underwear. Suddenly become aware of all of the blood that's head. Shovel's head, cocoa liquor up inside the Tupperware. We make your supper head, take your wallies and your other pairs. Undercover's there, and a couple of drunken rushes there. Tons of guns are paired, and it's cartridges in abundance here. It's motherfuckers armed to the teeth, it's like we'd abundance wear. We took a tunnel there through the sewer, it wasn't traceable. The blicky go up strap under your chin and blow out your nasal roof. The best hustle, the neck muscles, it's like a saber tooth. The tech touch you, the tech cut through every racial group. We standing on the top of Olympus. Ricordiamo di iscriverci su Telegram. My commission, sit at the table like chat trattino basso. Okay. Radio Zam trattino basso chat. Qui ci potete scrivere in diretta, se qui non ci scrive solo gioia. Ci dà un sacco di consigli. E niente, dopo di noi ci saranno altre persone che ci dedicheranno il loro tempo. E la gente comincia a essere fattissima, addirittura sento rifiutare le bombe. La situazione si fa quasi grave. E niente, questo è Sicilian Bull di Vinnie Paz. Sì, sono tutti timidi, non so che cazzo è successo. Sit at the table like the last supper. You fuck on, you fuck on, we unholy. Short razor, full blooded money maker. Where we at? Keep my face right here. Respeta al arquitecto. A estas alturas el tiempo se escapa entre las manos. Si ya sonamos así sin vuestros medios, imagina cuando los tengamos. Si soy demasiado rapera pa' ti y tú demasiado guapo para este desastre. Con los ojos chinos me mires así. Enamora a la muerte aunque nunca llegue a tenerte por ti. Me habría quitado toda la vergüenza, sé. Me sabe amargo como su motion orquestra. Existe una clara diferencia entre las cosas bien hechas y las que se dejan a medias. Te juro no querés saber, no. Mis perros listos en la cela, mi alma está chapada, la no sí que replantea. Si soy yo la que no da la talla, muere tú el que no se entera. A mis crushes les dedico openings. ¿Quieres ser mi más uno en la lista gratis? Sé que te la lío luego nasty. But I used to run away from my problems. El psicopaz por las nubes. Soy la mujer de tu vida y no lo sabes. Te quiero pero yo qué sé. Soy la piba que se enamoró del prota y no es perfecto. Don't stick in my way a los Black Street. Pidiendo tregua ya no tengo ganas ni pa' mí. Me subo al nihilismo y tú disfrutes como en feel. Que esta presión me sirva de algo al menos toma y free. Me quedo en KO si lo propongo. Esta forma de matarme todavía sigue en mis manos. Lo que más me llena y lo que menos escucho. Que este dolor es más bonito si no es tuyo, ¿no? ¿Qué me decís vosotros? Haciendo que escuchéis esta basura, loco, estoy podrida de lejos. No me captáis pero tampoco sabéis verlo. No os esforzáis en entender el concepto que traigo y yo cuora. Las niñas cantan ya no lloran. Me baso en estos dos principios, consecuencia y causa. De punto en la misma liga y paso de tus vainas. Prueba que llore mi mamá, llorará la tuya. Me esperas a cara fina, tumbado en la cama. Paso de tu culo, pero negro que bien baila. Ya no sabes nada de nada, nada que historia y nene. I love it when you call me big mama. I love it when you call me big loca. Y esta habilidad me sabe a menos si jugamos a pacha. Pienso que estoy fuera y aquí desmonto la trama. Con gesto de geisha saco brillo a la katana. Monsters, gorillas, stone cold killers, monsters, gorillas, stone cold killers, monsters, gorillas, stone cold killers, monsters, gorillas, stone cold killers, monsters, gorillas, stone cold killers, monsters, gorillas, stone cold killers, monsters, gorillas. Can't even bust your hammer everywhere, there's a camera. Police scanners is peeping the whole parameter. Have my niggas fellas can't even get into Canada. Crack rappers getting more weak than the calendar. Defeat beat any challenger, huh? Your weak stamina, Mike Damager, flow dirty like a janitor, untouchable, lyrical gun bustin' you, hands where my eyes can see just like bustin' you. This is type of shit to make the cops wanna fuck with you. Shit about the blow, the flow is combustible. Mention with the greats, my nigga, non-debatable. Your numbers is inflatable, rap not relatable, rhyme animal, don't burn, non-flammable. I'm a cannibal, half man, half mechanical. A-team, sticky Mr. T, I'm Hannibal, Hannibal, Hannibal, Hannibal. Stone Cold Killers, Monsters, Gorillas. Stone Cold Killers, Monsters, Gorillas. Stone Cold Killers, Monsters, Gorillas. Stone Cold Killers, Monsters, Gorillas. Ayo, the vet slaying them. If you ever think of playing them, you coming to the garden, my nigga. Gillette Stadium. Hit him with the 4-5. If he acting shady and deflate his cranium. Tom Brady'em, 380'em. If you owe me some paper, you better pay me then. Or hit the ATM or the trunk of the Mercedes Benz. Acting hard when you softening some baby skin. Get your head back, you ain't gotta be Arabian. Knuckles the vet, I'm puffing the best. I'm nothing to test. The pigs want me under arrest. Got the 100 mad hoodie, cause it comes with a vest. Not even a flesh wound if I get one in the chest. Yes. Same thing we do every night, Sticky. Yeah, trying to get some rainiest. Sticky fingers out, I get so famous. On guard, you get robbed by the atheist, the craziest. Feel my radius, see your radius. So maybe it's just so spontaneous or instantaneous. Come from your extraneous, simultaneous. Show you that it's my alias. You erroneous or you Iranius. Hit you right inside of your pancreas. I got metal arms, Dr. Octavius. We just some maniacs, nigga, you miscellaneous. We the honest niggas, nigga, we the shadiest. Stone Cold Killers, Monsters, Gorillas. Stone Cold Killers, Monsters, Gorillas. Stone Cold Killers, Monsters, Gorillas. Stone Cold Killers, Monsters, Gorillas. Stone Cold Killers, Monsters, Gorillas. Stone Cold Killers, Monsters, Gorillas. Stone Cold Killers, Monsters, Gorillas. Stone Cold Killers, Monsters, Gorillas. Gotta watch your environment to know better, to do better. As we pursue cheddar, think what can I do better. Failure's not an option on the list. Fuck that stop and frisk, that's to lock you in. Gotta move wise, don't let them stop what you vision. The more you level up, the more higher rank the mission. We stockpile the limits, pushing different types of envelopes. Long as I know the ropes, we adjust to handle what's difficult. Can't make too many bad moves, you gotta learn from it right. Emotional decisions could lead to you doing life. The universe shows many sides, pick your poison. It's never all sunny, gotta make your choices. My hands over the market, riding foreign car, valet park it. It's like I navigate through a starship. I told a gun before I be a victim of one. The more pain you endure, the more numb you become. And the fact remains, keep the distance from them lames that be naming names. A soldier dies one time, a coward dies many. Legends never really die, but cowards die really. I light a candle for the lost souls, and when I'm bones, I'll see you at the crossroads. These scriptures something like lost codes. I'm tapped with the ancestors, this is lost gold. And I don't wanna be held back. Looks like I'ma ride this train till the rails crack. Ain't no looking down and ain't no turning back. Great adventures. FGL, double OD, double cuss, slut with the double D's. Soaking the summer breeze, fiend washing my V, flea on M.O. King. Oh, held the king, belt out the beam, never looking back. On the heart like Fortnite, leave you your frostbite, don't ever cross sights. If it's a short sight, this long range game. Shit ain't changed, cats going to King, you corner lane. Broke the pain, broke the chakra. Been a walk of time bomb, don't fuck around, you got that wire on. Reaching for my firearm, I don't know you from a can of paint. Give it a shake, spray it in your face. This ain't the place, this amazing grace. Let me see my grace. Fuck the shoebox, I'm gon' need a greater shake. Shit abrade from these paper plates. Raise the stakes, they can keep the pace. Niggas late, niggas late, Lord. Fuck living mediocre. Apply it now, you can get it over. Get it over. Fuck living mediocre. clouded, now that you can get it over. The best snow with the pistola. Left Sinaloa, getting older. I'm too cold, bro, I do this for the culture. Foundated in the ancient super ultras. A magnanimous decision, just the hair I'm gon' give it. Should be independent, you offended, I meant it. Yo, the ancient king meant it, this shit's expensive. And these bitches too sensitive. You just need some more convincing, kid. Shit, you ain't on nothing. Fuck ass niggas, man. Prime Report. Oh shit. Ay, papa. Let's pick up the phone for this shit. Ay, there's only one place you can get this type of shit. Me da yo, papa. Who else you know just drop some shit without a gram of soda? I'm sharp, I sharpen my motor skills with a Motorola. These dimwits couldn't withstand the glow up. As far as rap, I turn them into cold cuts and then ship it to Manitoba. I hear proposals, but I'm vocal in the counter opal. We shop at Whole Foods, we eat, and somebody should have told you. All they rap sounded hormonal. Get out your feelings, get distorta. You looking at culture, hey, no, we went su orcha. I like the cebolla, cause I grew up in una olla. Threw up when I smelled the work that I got from Marta Montoya. Rest in paradise, I paired the nights with heli shit. And pissed on your favorite rapper like Sun got stung by a jellyfish. No Robert Kelly shit, my Kelly rolling keep the jelly thick. Steady bouncing on my meatballs until I got a spaghetti dick. I've been equipped with the gifts since I would have to make my celly flip. I already mentioned I got the wave that probably made the levee split. Whoa, you don't represent what we represent. We don't deal with embellishment, who really selling shit? The measurements equivalent to baby elephants who treasure it. Our prices are insane, as crazy Eddie's is. You don't represent what we represent. We don't deal with embellishment, who really selling shit? The measurements equivalent to baby elephants who treasure it. Our prices are insane, as crazy Eddie's is. Forget about it, paisano, my pocket Parmigiano. Just got a condo, you walk in, all you smell is gelato. This shit was sponsored by rocking like it was Cabo Wabo. Before they do me like Macho Camacho, burn down your Nissan Murano. You can sleep with pescados, let's see who mention you. I'll be relaxing by a swimming pool, ordering fried tentacles. The competition is non-existent at best minimal. Cynical when considering insignificant individuals that's on my testicles. My loud burning and raising decibels. Got accolades ahead of schedule. Several lames felt that pain in their ventricle. And I'm just doing what I meant to do. My deck, I'm making prices drop. Rap don't work, I'm in a spot, and you could call that a writer's block. Shit I write should be in a silo locked. It's always been the case since my bread was thin as Philo dough up in a gyro spot. These motherfuckers just like to type a lot. I'm different though, I lift your soul. This shit'll never land like it was Michael's spot. Whoa, you don't represent what we represent. We don't deal with embellishment, who really selling shit? The measurements equivalent to baby elephants who treasure it. Our prices are insane, as crazy Eddie's is. You don't represent what we represent. We don't deal with embellishment, who really selling shit? The measurements equivalent to baby elephants who treasure it. Our prices are insane, as crazy Eddie's is. Este era un barrio invisible, una calle invisible. Yeah, va giù il beat quando parlo. Ok, ora no. Ci. Chi dorme non piglia pesci, ma mutanti al mondo che vedevo va in collasso. Si assottiglia, discrimine, tra crimine stato che serve avere carte buone quando piglia tutto l'asso. Io non riesco a stare con le mani, ma non manco se mi diventa gioco di villano. Riequilibrio quello che non mi ricordo, quindi vaffanculo. Ancora una volta parto con un porro in bocca, un'altra volta tipo vegetale sulla traccia, stato vegetativo. Non mi importa, rimango recidivo, quindi non sono il solito divo. Hai capito che mi affido alle barre contenute nelle nuvole quando piove. Senti il fango che intrancia i passi attraverso le pantofole. Sul terreno ruvido di palazzi crollati. Una volta che ci avranno sterminati, potranno mandare le termiti come loro soldati a ricoprire tutte le terre. Sulla traccia stretti come gibilterre. Un'altra volta andiamo con la barca a remi attraverso Venezia distrutta nei canali esondati. Sulla traccia un'altra volta nessuno ci ha assoldati. La passo al mio socio. Yo. Yeah. Hey. Crew Crew. Levo cucina, stendi i panni. Levo cucina, stendi i panni. Levo cucina, stendi i panni. Levo cucina, stendi i panni. Tu passami il mocio. Il nome è Doc, nudo su Doc, raccolgo il suo sangue sul dojo. Di fretta col sugo sul fuoco. Aspetta che è l'ultimo scopro. Che è il mio ultimo scopo. Arrivare a dopo ci arrivo con l'offo. Tu dammi una mano a non farci le foto. La tua wave non la quoto. Io so chi sei, il nulla vuoto. Attraverso il mare a nuoto e sarò a scoglio dentro il maremoto. Fio che scalpesta il fiolo e resta pure. Tonfa contro teste dure. RCP zenga cura. Intanta palestra a letto presto. Mangia le verdure. Peter Parker flow. Non cambio le carte sto. Servito a coppe, carte d'or, ragnatele sui muri, Art Deco. C'ho casa piena di blatt, bro. Wanna fuck, anche no. Perde punti, cala score. Ma in punta cala io. Ti scratch sul tattoo e Pantenol. Yax, Flux Krubic. Sono dirti dove è bello d'oro. Non tempo che tu ricorra gli dèi. Gli dèi non rispondono a chi li invoca, tanto meno risponderanno a me che non li invoca. Ti sfumano, io ne cerco la tempera per capirne, capirne l'adattamento alla strazio che impera, divide gli umani in bestie solitari in branco di compagnia, ma che sa leggere foglie, etichette, fogli di via. Io sto ancora fermo della disudire di questo momento, non so che cosa dire, quindi vaffanculo, ancora non mi trattengo perché mi pento. Ogni volta delle strofe che prendo è come se prendessi una strada al contrario che non mi porta in centro. Tipo città, ma dove c'è la mia periferica, non c'è la mia periferia, la mia testa diventa disfunzionale. E quindi ancora riparto con l'aereo che va verso il basso, perché non riesco a tirare la cloche ma finisco sul materasso, come precipitando da un grattacielo. Ancora una volta passami il grana padano, quello vero. Oh sì, voglio un po' di formaggio e di pane. Ancora un'altra volta andiamo al tuo funerale. Yeah. Allora col ventriloquo, il più lungo il ventricolo, pericolo per i pezzi e per il perimetro. Soffro di anemia, non termina l'anomalia, ma purtroppo è troppo nera, non torno a casa l'anima mia. Perdi lucidità, la luce di città, Lucifero ci chiama dall'aldilà. Tu non darti aria, devi scardinare, porti da scardinare, ricorda che puoi farti male. I controllori ci vogliono controllare, siamo noi contro di voi da contrastare. Preghiere al contrario da contraltare. Ho fatto un patto con il diavolo che non puoi contrattare. Fisso il labiale, parole che non concepisco. Preghiere sottovoce sotto il crocefisso. Cerco vendetta come il conte di Monte Cristo. Ma il problema è monte al monte dove è morto Cristo. G, la caverna posse. Noi vi salutiamo, vi lasciamo un po' di musica e dopo arriveranno le fiabe della buonanotte, la rubrica ginnastica per sale d'attesa e altre cose, quindi continuate ad ascoltarci. Nel frattempo giù sono degli schifosi perché sono impastati il cervello con Netflix e ci stanno boicottando, però fanculo. Ascoltate, scrivete su Telegram, qualcuno vi risponderà prima o poi. E sì, Gulli, stiamo registrando, però facciamo fare spezzettati perché sennò poi diventa ingestibile, quindi bella lì, a dopo.